Brussellando, viaggio tra l'agenda culturale, i libri, gli artisti, i musicisti, i pittori, insomma tutti quelli che hanno l'espressione delle emozioni, e voi siete a Brussellando, una nuova sigla per un nuovo inizio. Ebbene sì, cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate, vari dia ai microfoni questa sera per un'intensa, ricchissima puntata di Brussellando. Saluto tutti voi, tutti coloro i quali sono all'ascolto, coloro i quali stanno rientrando a casa, coloro i quali ci ascoltano, insomma, mentre terminano questa lunga giornata di lavoro. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti. Fiordaliso. Buonasera. E come avrete potuto capire dall'antifona, possiamo chiamarla antifona? Antifona, sì, sembra un po'. Però questo non è una messa, eh. E chissà, non lo sappiamo, vediamo come va a finire. Questo non lo direi. Questa sera parleremo due lingue. Di tanto in tanto ci capita di avere anche degli autori belgi in questo caso, e sono molto contenta perché ospitiamo un altro degli autori pubblicati dalla casa editrice Meo, diretta da Gérard Adam, e questa sera abbiamo qui con noi in studio Claire Rouet, che è autrice del suo primo romanzo, sebbene questa sia la sua terza opera letteraria, La donna mosaico. Quindi cambierò, passiamo al francese, ma prima vorrei raccontarvi qualche cosa di Claire, perché ha fatto tante cose Claire nella sua vita. Diciamo che abita a Chaltain, che è vicino Siné, poi magari lei mi corregge se dico qualcosa di impreciso, e ha lavorato molto nell'ambito delle comunicazioni applicate, e diciamo ha più esperienze anche in diverse associazioni educative e ONG. Dal 2007, quindi già da qualche anno, ha sviluppato una carriera artistica intorno alla scrittura, al canto, sotto forma anche di spettacolo, non solo, ma anche di racconti e animazioni di atelier di scrittura. E come avrete potuto capire, Claire ama anche un po' mescolare le differenti discipline artistiche, perché come capirete questa sera è anche una sublime poetessa nonché romanziera. Quindi dopo Blanc foncé, A récit de vie et mon présent est ailleurs, qui était un recueil de poésie, elle vient d'éditer son troisième livre, La femme mosaïque. Donc moi je souhaite la bienvenue à Claire. Merci, bonjour à tout le monde. Et donc on est très curieux de savoir comment et quand est née ta passion pour l'art. Eh bien, ma passion pour l'art est née de mon ventre. Donc, j'ai épousé un homme d'origine africaine, et quand mon premier bébé est né, on me demandait d'où elle venait. Et donc, voilà, j'ai eu envie de décrire d'où elle venait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Blanc foncé, mon présent est ailleurs, voilà. Et donc, vous avez mélangé plusieurs disciplines artistiques. Qu'est-ce que vous aimez le plus retenir quand tout passe entre une discipline et l'autre? Eh bien, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est l'écriture, avant tout. C'est vraiment ça, la première discipline artistique dans laquelle j'ai voulu commencer. Puis, une fois que mon livre est sorti, je me suis dit, ben, si je ne fais rien, le livre, il va rester là. Et j'ai commencé avec une comédienne qui lisait mes textes, et moi je chantais des berceuses que j'avais inventées pour mes enfants, parce que ça j'ai toujours bien aimé chanter. Et puis de fil en aiguille, on a fait des lectures spectacles, et puis elle m'a dit, mais si on faisait un vrai spectacle? Et puis on a été en contact avec la maison de la culture de Stavelot. Et le centre culturel de Stavelot a produit le deuxième spectacle que j'ai fait. Et là, je jouais de la musique, je chantais et je racontais mes poèmes. Parce que la poésie reste inaccessible à beaucoup de monde. Et quand on les chante, en fait, la chanson, c'est quelque chose qui est un art populaire. Alors que la poésie est vue plutôt comme un art d'une élite. Donc voilà pourquoi j'ai aimé chanter. Et ça forme un tout finalement. Le livre, c'est quelque chose de plus intérieur qu'on fait chez soi, et le spectacle permet de rencontrer les gens. À propos de ça, tes œuvres littéraires sont même mises en scène. Comment change, si c'est le cas, ton approche, ta créativité à l'écriture entre la parole écrite et celle parlée? Bon, déjà, la parole écrite, enfin, moi j'ai tendance à faire des phrases courtes, donc c'est déjà plus facile pour passer à l'oralité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler beaucoup le corps, puisque à ce moment-là, on peut prendre plusieurs voix. Par exemple, quand je prends la voix d'Eliane, j'ai une grosse voix comme ça. Et puis, quand je prends la voix de Marisol, elle a une plus petite voix, une voix beaucoup plus rapide. Bon, voilà, c'est, il faut incarner les personnages. Et puis, il y a surtout le rapport au public, le rapport à l'espace qui change. Maintenant, voilà, peut-être qu'il faut encore aller plus loin et construire encore une autre écriture spécifique au spectacle. Ça, c'est peut-être pour d'autres projets. Parce qu'ici, au départ, je suis partie des livres et puis après, je me dis, oh, ben, tiens, j'irai bien vers la scène. Mais l'écriture spécifique pour la scène, je n'ai pas encore fait. Ça m'intéresse beaucoup, la mise en scène. Mais donc, c'est toi qui as fait directement la mise en scène ou pas? Non, j'ai l'immense plaisir d'avoir un monsieur qui s'appelle Émile Esbois, qui est retraité maintenant, mais qui est un peu le père du théâtre action en milieu rural, qui a fait beaucoup de choses. Et donc, c'est lui qui met en scène mes spectacles, et c'est lui qui m'a tout appris en matière de mise en scène. Bon, scénographie, c'est lui qui conçoit tout ça. Mais alors, comme actrice? Comme actrice, bon, je ne me considère pas comme une actrice. Je dirais plutôt, je suis une cause. Le rapport est différent. Enfin, même pas une conteuse. On parle aussi de performance. C'est quelque chose de plus moderne. Finalement, je suis à la rencontre. C'est comme dans le livre, Eliane. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la terre. Je suis une rurale. J'ai un côté très traditionnel. Donc, c'est peu le côté conte. Et en même temps, ce côté artistique un peu contemporain, un peu... Voilà, de vouloir aller explorer des voies nouvelles, donc comme mélanger la musique et le texte. Bien, alors, venons à ton premier roman. C'est La femme mosaïque. Très intéressant comme titre. Je l'ai lu dans un article et qu'il t'a fallu 10 ans pour le terminer. Qu'est-ce qui t'a donné finalement l'envie de couronner ce projet des 10 ans? J'ai toujours eu envie de le terminer, mais c'est simplement que moi aussi je suis une femme mosaïque. Donc entre-temps, j'ai commencé justement à faire des spectacles, à développer ma vie artistique. Et j'avais moins de temps, comme j'étais plus occupée à la scène, à la promotion de mon premier livre. Et puis que j'avais aussi des enfants en bas âge. Voilà, ça m'a pris du temps. Mais... Voilà, j'ai toujours envie d'aller jusqu'au bout. Maintenant, pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet, il fallait un éditeur. Hein? Donc là, c'est là qu'intervient Gérard Adam, qui lui a donné la chance à ce projet d'aller jusqu'au bout, parce qu'on peut rêver tout ce qu'on veut s'il n'y a pas un moment un éditeur qui croit dans un projet, oui, dans un livre, qui lui donne l'occasion de rencontrer le public. On n'y arrive pas. Là. Bruxellando, comme tu le sais, c'est quand même une émission dédiée aux auditeurs, surtout italiens ou italophones. Et donc, quand on pense au concept de mosaïque, nous pensons surtout à des auteurs italiens. Il nous vient à l'esprit, par exemple, Pirandello, qui est auteur, parmi d'autres, de 1 personne 100 000, où les protagonistes abandonnent son ancienne conception qui considérait que l'un valait tous, pour comprendre qu'il n'est rien, à travers la prise de conscience des différents lui-même que mettent progressivement au jour ses relations avec les autres. Qu'est-ce que c'est alors une femme mosaïque? Une femme mosaïque, c'est peut-être toutes les femmes et peut-être même tous les hommes, parce que nous avons en nous plusieurs couches, comme vous venez de le dire. Donc il y a le moi enfant, le moi jeune, le moi adulte, le moi du travail, le moi qui est dans les relations familiales, le moi qui est dans la société. Et ce sont toutes ces couches de soi-même qu'on doit arriver à combiner. Et dans les différentes étapes de vie, ce n'est pas toujours simple. Voilà, c'est ça la mosaïque. Peut-être que les femmes sont un peu plus mosaïques. Les femmes doivent tout concilier, hein, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse. Elles jonglent peut-être un peu plus, alors que les hommes sont plus dans les rôles traditionnels en tout cas, plus orientés vers l'extérieur, vers la vie. Mais maintenant, il y a des hommes qui veulent aussi avoir une place de père, et c'est pas simple pour eux non plus. Pas du tout. Pas du tout. Ce serait un argument intéressant, hein, quelque chose à étudier. À développer là-bas. Hein. Non, mais oui, parce que les femmes mosaïques, c'est vrai que j'accepte l'approche des femmes mosaïques. Tandis que pour les hommes, je ne parlerai pas du mosaïque, mais des coins différents, comme un parallélépède. Un parallélépède, je crois. Parallélépède. Désolé, comme vous le savez, on fait très rarement des émissions. Mais non, en français, c'est que on n'utilise pas souvent ces mots-là. Donc, plus, donc il y a des faces, plusieurs faces différentes, tandis que les mosaïques, ça change, ça comporte aussi des couleurs, tout ça. Ça, j'aime bien. Donc, la femme mosaïque, c'est vraiment bien choisi, si je peux me permettre. Ouais. Vraiment c'est bien choisi. Qui raconte beaucoup de choses. Oui. Tu racontes l'histoire d'une femme qu'elle doute d'elle-même, du sens de sa vie et de son art. Et à un moment donné, elle a besoin de résoudre le nœud de son passé. Entre réalité et fiction, d'où naît cette histoire? Cette histoire, elle est née, en fait, j'étais dans la bibliothèque de Marchand Famène, puisque je fais partie de ce qu'on appelle la table d'écriture littéraire de Marchand Famène. C'est un groupe de personnes, on se réunit tous les lundis pour écrire. Et dans cette bibliothèque, à l'époque, il y avait un animateur qui nous a dit, bon ben voilà, vous allez écrire un scénario. Je n'avais pas beaucoup d'inspiration, donc j'étais un peu dans la situation d'Eliane qui ne sait plus. Et puis j'ai vu, parce que je venais de terminer le récit de vie, donc après avoir terminé un récit de vie, on a bouclé quelque chose, justement, un retour sur le passé, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, il y avait un livre de Pedro Gimarga, et ce livre... Enfin non, c'est pas de Pedro Gimarga. Le photographe s'appelait Gimarga quelque chose, je ne sais plus. Et c'est un livre de... On peut l'accepter, parce que Pedro, c'est un des protagonistes du roman. Là. En tout cas, je lui ai piqué son nom, en tout cas, pour le livre. Et c'était un livre de photos de Barcelone avec le Parguel, enfin tout l'univers de Gaudi. Et quand j'ai vu cet univers que je n'avais jamais vu en vrai, ça m'a fait rêver. Et c'est de là qui est sorti le personnage de la femme mosaïque et aussi le personnage de son homme salamandre, parce qu'il y a aussi une salamandre comme ça devant le parc, et le travail du fer forgé aussi qui est très important dans l'univers de Gaudi. Voilà comment sont nés les personnages. Avete un po' ascoltato le aree che potrebbero animare anche la femme mosaïque mise en scène par Claire. South Connotation, il brano è Nora, e salutiamo anche Ivanis Yaliprete alla chitarra acustica e Frédéric Guillaume al sax alto. South Connotation. South Connotation. In effetti la musica che avete ascoltato potrebbe andare in tutta l'area del Mediterraneo. Da Radio Alma, quindi. Radio Alma così. È una radio mediterranea, quindi questa musica non è assolutamente avulsa dal contesto, anzi, è dentro il contesto. Ma ritornando al romanzo, revenendo al nostro roman, il romanzo si passa in una villa inconnue e in un tempo imprecisé. E donc ça semble che c'est un choix pour le futur plutôt que pour le passé. Pourquoi? Bien parce que justement après avoir fait un récit de vie, je voulais être dans la fiction complètement. Je voulais pas que les gens croient que je continuais à raconter mon histoire personnelle. Donc, et aussi parce que j'avais été assez limitée dans l'écriture. Forcément, quand on écrit du récit de vie, il y a une certaine fidélité qui est demandée. Et donc là, j'avais envie vraiment d'explorer toutes les possibilités. Que donne la fiction, y compris celle d'un univers qu'on peut créer. Et aussi le fait de parler du futur, ça me permet de faire, bon c'est un mot un peu savant, mais moi-même je ne savais pas que c'était ça que je faisais. C'est un participant à mon atelier d'écriture qui m'a dit après que je faisais ce qu'on appelle la dystopie, un peu comme dans le livre 1984 ou Le meilleur des mondes. Donc c'est d'imaginer un petit peu tous les travers du monde futur, si le monde continue à évoluer tel qu'il est aujourd'hui, où va-t-on aller? Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et donc, ça me permet de poser le doigt sur des problèmes, par exemple, les librairies qui disparaissent, l'eau qui est privatisée, le problème des clandestins, des migrations. Voilà, ce sont toutes les choses que j'avais envie de mettre aussi dans ce livre. C'est vrai qu'à un moment, pour toucher peut-être un plus grand public, j'ai réfléchi à enlever ça, mais plus je revenais à Gaudi et au réel, plus je voyais que Gaudi, lui, avait mélangé justement des styles très différents. Il mélangeait l'art nouveau avec l'art mauresque, le classique avec des choses très fantaisistes. Donc, voilà, je suis revenue aux racines même de Gaudi, de me dire, voilà, je peux aller dans un univers du futur, de la fiction. En fait, c'est un roman où on y trouve pas mal d'éléments. Il y a l'amour, l'amitié, la socialité, les désirs de la création. Alors, à propos de ce que tu venais de dire auparavant, sur les choses qui animent en fait la société d'aujourd'hui, quel rôle, à ton avis, joue l'art de nos jours? Je pense que l'art peut jouer le rôle justement d'inventer ou de le monde de demain ou de poser des questions sur le monde d'aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est de plus en plus difficile parce que l'art est soumis à la loi du marché, comme tout maintenant est soumis à la loi du marché. Et donc, voilà, il faut toujours plaire. D'ailleurs, je le dis un peu dans le roman, quand elle va au centre d'information, où il y a des sirènes en trois dimensions qui passent avec les mots prix, publicité, le public le plus large possible, le prix le plus bas possible. Tout ça conduit à une standardisation et une marchandisation de l'art. Et ça, c'est un peu dommage. Maintenant, voilà, en racontant des histoires, j'espère qu'on peut quand même faire rêver les gens et puis les faire réfléchir en même temps. Les réponses aux questions clés de ton roman, peut-on résoudre un amour comme on résoudre un fer? Et peut-on recréer une unité à partir de brisures? On les laisse découvrir aux auditeurs, mais elle m'amène à une question simple, difficile et éternelle en même temps. Qu'est-ce que c'est l'amour pour Claire V? Eh bien là, je vais vous dire, c'est beaucoup de questions, et pour comprendre toutes ces questions, je vous invite à lire La femme mosaïque. Eh bien, è una domanda complessa, ma vi assicuro che troverete delle risposte. Allora comincerei magari da una delle risposte che Claire fornisce nel suo romanzo, e se Claire è d'accordo suggerirei che possa leggere lei stessa un estratto proprio dal romanzo. Bien sûr. Marisol et Eliane sont dans la cour au milieu des cases. Elles boivent la tisane du soir en se réchauffant autour du feu. Marisol demande à Eliane: « Qu'est-ce que tu viens chercher ici à ton âge ?» J'étais en panne d'inspiration, en panne de vivre. Quelque chose s'est réveillé en moi avec le désir de visiter Escadaldra. « Alors tu as tout plaqué ?» Eliane se raidit. Elle, plaquer, abandonner sa famille, faire grandir encore la fougère? Non. J'ai simplement ouvert la fenêtre pour aérer, tu vois. Avec toi, j'ai retrouvé le goût de travailler la mosaïque. Ce serait bien plus facile si tu travaillais dans ton atelier avec ton super meuble à tiroir. Ici, tu bosses par terre et tu te relèves les genoux en compote. La douleur dans le genou d'Eliane se réveille. Elle cherche à changer de position, discrètement. Mais Marisol la guette par-dessus la tasse et il ne manque rien. Elle en est sûre. Et toi, que cherches-tu? Vivre à fond, découvrir, être libre, quoi? Marisol tortille ses mèches rouges et jaunes et ne lâche pas Eliane du regard. « Pourquoi restes-tu, Eliane? Tu as déjà visité 100 fois Picaflores et tous les parcs de Scadaldra. Me cacherais-tu quelque chose? Eliane avale une gorgée brûlante. Elle plonge le nez dans sa tasse. Son ventre se noue. Elle fixe les lueurs fugaces des flammes. Quand j'avais ton âge, j'ai connu un garçon. Il s'appelait Pedro. Il venait de ton pays. As-tu déjà été amoureuse, Marisol? Peut-on décrire l'eau intérieure qui s'en divague, l'envie de se fondre complètement dans l'autre et d'y rester à l'infini? Marisol s'enfonce dans la danse du feu. Eliane se tait, mais elle revoit toute la scène. Les mains de Pedro la déshabillent. Leurs langues se mélangent. Il la sait entre ses jambes. Il a fait de son torse recouvert d'une mince toison un rempart sur lequel elle s'est appuyée. Les flammes lèchent les bûches, le feu crépite, lance des étincelles qui meurent dans la nuit. Au plus fort du désir, j'ai tout arrêté. Pourquoi? J'avais peur de m'attacher à lui. Il ne voulait pas que je sois amoureuse. Il était resté pour une autre fille. Il était devenu clandestin. J'ai eu le malheur d'arriver après elle. Eliane reprend une gorgée de tisane refroidie. Marisol, un jour, si tu désires, prends des risques. L'amour, c'est toujours un risque. Va jusqu'au bout, fonce. Seulement après, tu t'inquiètes de choisir, tu t'engages. Tu as choisi Hector, pourtant? Oui. Avec lui, j'ai planté un jardin, fait des enfants. Je l'aime. Hector et moi partageons cette passion de travailler les matériaux nobles et durables, de vouloir faire naître du beau à contre-courant dans ce monde où tout se consomme, se jette et se démode. Alors pourquoi restes-tu? Je voudrais revoir Pedro avant de mourir. Deux larmes fuient sur sa joue, dessinant un sillage brillant dans l'obscurité. Marisol se lève, réajuste la couverture sur les épaules d'Eliane. Alors tu es venue jusqu'ici pour le revoir? Eliane raconte l'accident, le petit bout de papier chiffonné au fond de son sac, le livre. Alors qu'est-ce que tu attends? C'est toi qui viens de me dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ses désirs. Je suppose que ce bon conseil ne vaut pas pour toi. Eliane se lève, contrariée. Marisol se place dans son dos et l'entoure de ses bras. Les étoiles sont innombrables. Voilà, donc c'est un extrait du spectacle. Ben. Très intéressant quand même. C'est, l'atmosphère est très précise et donc on imagine bien même. Avec seulement la voix et sans scénographie, sans rien. On a dévoilé déjà un coin du roman. À vous, chers amis auditeurs, lecteurs, de découvrir la suite. Et il tempo, malheureusement, ora inizio anch'io a mischiare le lingue, corre veloce. Quindi, Claire, est-ce qu'il y a encore une question que nous n'avons pas encore posée et à laquelle tu souhaiterais nous dire de plus? Bien, peut-être, voilà, en tout cas, le livre, on peut le trouver dans toutes les librairies. Il est distribué, voilà, Gérard va dire, c'est Pollen, c'est ça? Voilà. Et quant au spectacle, ben, la prochaine fois, je le présenterai à Lessine le 16 novembre et au Cabaret des Oiseaux et à la Bibliothèque de Libramont. Le 21 septembre. Donc la première date est le 21 septembre. Oui. Ok. Et voilà, et après le 16 novembre. Et après le 16 novembre, comme ça. Quindi, se siete curiosi magari di voler assistere anche allo spettacolo di Claire, il 21 settembre e il 16 novembre, George, non ho capito dove avrà luogo, perdonami ma ero distratta. Il primo a Libramont. Ah, Libramont, famosa anche per la fiera dell'agricoltura, quindi non vi potete sbagliare. In entrambi i casi? No, après le cinéma. Ah, è per la suite, dunque, Alessin, che io non conosco, ma Libramont ci sono stata, quindi potrebbe essere anche facile raggiungerlo. Claire, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi, veramente ricordiamo quindi ai nostri amici all'ascolto La Femme Mosaïque di Claire Rouet, edito da Gérard Adam, che veramente ormai è diventato il mio editore preferito, lo possiamo dire? E abbiamo ancora un ospite che sarà con noi a inizio luglio. Poi Brussellando volge al termine, ma la Brussellando continuerà con tante sorprese, quindi ci sarà modo di scoprire altri autori. Claire, nous te souhaitons all the best, come dicono gli inglesi, e nous espérons de t'avoir avec nous encore très prochainement. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est très chaleureux. Chez vous, chez elle, chez lui, à plusieurs, à l'hôtel, dans la nature ou dans l'ascenseur, en vacances, au bureau, sur une aire d'autoroute, dans une backroom, un club ou tout simplement un lit. Sur une chaise, sous la douche, dans l'escalier, au sauna, avec ou sans rendez-vous, tarifé ou pas, très amoureux ou pas du tout. C'est où, avec qui et comme vous voulez, mais toujours protégé. SIDA et IST, utilisez un préservatif et faites-vous dépister. Plus d'informations sur préventionsida.org. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. South Connotation, avete ascoltato Piazza Navona ed era ancora Iali Prete. E ringraziamo Claire Rouet che ci ha fatto incontrare, conoscere la sua scrittura e La Femme Mosaïque. E beh, però adesso veniamo invece a un altro artista, questa volta un artista italiano, quindi cambiamo dal parallelepipede. No, je l'ai appris, c'est parallelepipede. C'était un peu difficile. C'était dur, hein? Parallelepipède, oui. C'est pas simple. C'est l'accent qui est différent en italien. En plus. Ouais. Mais bon. Quindi, dal parallelepipedo, e voilà, ecco la differenza, a forse da un dodecaedro irregolare, preferirei. Potrebbe essere, definire sì. Le persone come dodecaedri irregolari. Possiamo un artista italiano, ma definirlo artista... E poi, insomma, solo un aspetto, quindi il dodecaedro in questo caso è assolutamente appropriata come... come metafora, perché parliamo di un personaggio che ha vissuto più di una vita in una stessa vita, perché inizia come operaio alla Fiat Mirafiori studiando di sera, a metà degli anni 70 è diventato tra i fondatori della subholding componentistica Fiat dietro a Gianmario Rossignolo, De Benedetti e Romiti, poi è diventato amministratore delegato, poi executive VP Vice President di Iveco, e poi finalmente dal 90 al 96 fa quello che ormai, questo credo senza sbagliarmi, per dire che crea un capolavoro di tipo economico. Ma questo capolavoro di tipo economico, questa cosa che viene anche studiata in alcune università anglosassone europee, invece poi alla fine sfocia in una persona che si sposta completamente e scrive dei libri. E questa sera siamo qui per parlare del suo ultimo libro, che si chiama Una storia operaia. E credo di averlo già al telefono. È al telefono, signor Ruggeri? Sì, sono al telefono. Bene, molto piacere. Qui è Brussellando con Mary D e Giorgio Loranna. Saluti a tutti i suoi ascoltatori. Grazie. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Grazie infinita. Quindi dicevamo di questo libro che si chiama Una storia operaia. Una storia operaia che è stato edito, se non sbaglio, tra il 2009 e il 2010? È stato edito tra il 2008 e il 2009 da un editore che si chiama Brioschi, e poi io che sono successivamente diventato editore, 6 mesi fa l'ho rieditato in una versione aggiornata. E quindi... come avete sentito, signori ascoltatori, quest'uomo dalle mille sfaccettature, questo dodecaedro che ci dirà poi se è irregolare o regolare, ha fondato alla fine una casa editrice, la Gran Torino Libri. Possiamo dirlo perché questa sera in studio, oltre a un editore. Oltretutto, come lei sa, non so se lo sa, comunque c'è scritto la Gran Torino Libri nel suo sito, è una casa editrice che vive in questo, ha un conto economico di questo tipo. Io come persona fisica pago tutte le spese relative alla parte editoriale del libro, una serie di amici specializzati nelle varie attività librarie, e cioè le parti amministrative, ma riguarda anche tutta la parte grafica, la parte editor e così via, lavorano gratuitamente, quindi il libro ha costo zero e viene venduto, normalmente i miei libri vengono venduti a 20 euro e questi 20 euro vanno direttamente a un'organizzazione benefica. Beh, questo le fa onore. Questo le fa onore, qui abbiamo in studio anche un altro editore, Gerard Adams, con una piccola casa editrice, e però forse un modello economico, un modello di business diverso. Leggermente diverso, sì. Però non c'è, probabilmente dietro il nostro editore Gerard Adams, non c'è l'esperienza che c'è invece dietro Riccardo Ruggeri. E noi avevamo già premesso la sua enorme esperienza in termini di gestione aziendale, e però la gestione aziendale non ha niente a che vedere, o forse in parte ce l'ha, con questo libro che si chiama Una storia operaia, perché è una storia particolare, una storia che ha uno stile descrittivo, un'atmosfera che richiama quella dell'agro pontino di Pennacchi in qualche modo. Allora volevo chiedere, è una somiglianza casuale, un'ispirazione, una somiglianza che nasce dalla descrizione del medesimo periodo storico, della cultura di quel periodo, perché cominciamo da fine 800 fino ad arrivare ai giorni nostri. No, in realtà non ha, io conosco Pennacchi, ma non ha questa connotazione. Pennacchi, in fondo, il libro di Pennacchi è una storia di una grande mutazione di persone che si spostano da una parte all'altra dell'Italia per andare a risolvere i problemi dell'agro pontino. Quindi è una storia che ha un altro respiro. Questa invece è una storia molto più intima, è di una piccola famiglia, di una piccolissima famiglia, e il libro infatti è praticamente diviso in tre parti. Solo la prima parte è per certi versi connotata come quella di Pennacchi, ma anche lì non. Allora, la prima parte, che dura dagli anni dei miei nonni, dei miei bisnonni, e si conclude quando io grosso modo ho 20 anni, i miei, ed è quindi molto intima, molto familiare, e quando io perdo tutti, via via perdo il papà, i nonni, e rimango io e mia mamma, e poi incontro quella che sarà mia moglie. Questa è la prima parte. La seconda parte invece è un libro di management, la seconda parte, perché racconta 42 anni della mia scalata in Fiat, iniziando da operaio e via via salendo una ventina di gradi che esistevano per arrivare al vertice, fino ad arrivare al vertice che era costituito, la Fiat era governata da sei persone, che l'avvocato Agnelli come presidente, Romiti come amministratore delegato, e poi c'erano i capi delle tre, il direttore della finanza, e c'erano i capi dei tre grandi raggruppamenti della Fiat, cioè l'auto, i veicoli industriali, i trattori e le macchine movimento terra, di cui io ero l'amministratore delegato. E quindi questo, a un certo punto il libro, la seconda parte finisce quando io grosso modo ho 60 anni, e vengo licenziato. Lo dico in senso simpatico perché è da leggere quel capitolo, e poi inizia la terza parte del libro. La terza parte del libro riguarda invece la mia attività. Io rifiuto una serie di proposte per diventare amministratore delegato di altre importantissime società sia in Italia che all'estero, e scelgo di fare, il mio sogno era di fare l'imprenditore. Riesco in questa attività e praticamente quando abbandono questa attività da imprenditore, scrivo il libro. Scrivo il libro ed è coincidente con l'inizio della crisi. Poi il libro viene pubblicato da questo editore Brioschi, io poi faccio altre attività perché tutta la parte imprenditoriale passa in mia nuora e mio figlio e quindi io non faccio più, esco dall'azienda di famiglia e mi occupo comincio a fare giornalista e l'editore nel modo che ho spiegato prima. Alcuni mesi fa mi rileggo la terza parte del libro, quello della crisi, e mi accorgo, anche se lo sapevo, ma mi accorgo che ciò che avevo scritto nel 2007 si sta abbastanza puntualmente verificando. E questo mi porta a scrivere, a ristampare il libro con una cosa particolare a cui sono molto legato, una lettera sullo stile di quello di Steve Jobs, non con questo livello evidentemente, dedicata ai miei quattro nipotini. Tutto qua, questo è il libro. Beh, è un libro estremamente interessante, ma Mary ha una domanda. Sì, diciamo, faccio un po' la parte più femminile questa sera, perché sono stata molto incuriosita dalla prima parte, che è quella un po' più intima, e saremmo veramente curiosi di sapere quanto si sente vicino ai suoi antenati prossimi, dato che ha dichiarato di non essere riuscito ad andare oltre il bisnonno, e quante delle loro vite tramandate sente le appartenga. E per finire, quanto crede sia stato trasmesso ai suoi figli, dato che lei stesso ad un certo momento dichiara che ero certo che la vita di papà confluì nella mia? Beh, io sono convinto che la mia confluirà in quella dei miei figli e a loro volta dei miei nipoti. Cioè, io ho un concetto molto alto del senso di famiglia. Il senso di famiglia per me è una cosa importantissima, ma è, direi, abbastanza ovvio nei casi in cui tu sei veramente povero e di conseguenza sei una minoranza. Hai l'unico modo, è la famiglia che ti permette di fare massa critica, ecco, in questo senso c'è il senso della famiglia molto molto forte, è tipica appunto di tutte le minoranze. È molto interessante, perché veramente io ho letto il libro e devo dire che è una storia che si dipana a lungo degli anni, ed è per questo che alla fine forse qualcuno può venire in mente, avendo letto anche questa storia, questo dipanarsi di storia, ma avremo alla fine con una domanda sulla storia. Sì. Invece uno dei capitoli parla della grande crisi. Sì. Allora io vorrei sapere da Ruggeri, da Riccardo Ruggeri, che è stato sì licenziato, come si diceva allora, e questa cosa, leggendo il libro, veramente ha dell'incredibile, ma fa parte della storia, fa parte, sembra che faccia parte del gioco. Assolutamente, certo. È coerente con la storia. È esattamente coerente con la storia. È stata una decisione saggia. Sicuramente sì. Noi possiamo dirlo, chi ha letto il libro lo può dire, chi non ancora l'ha letto veramente suggeriamo leggerlo, perché questa parte potrebbe apparire poco chiara. No, invece è chiarissima, è tutto coerente. No, dico, mondo. A chi non ha letto il libro, questa parte magari al momento, adesso che stiamo parlando, certo, può risultare un ovviamente po', insomma... Ma vede, ospita. Il discorso della crisi, io sono praticamente, nel libro io lo racconto, mi vengono affidate sempre aziende in crisi. Cioè la Fiat ha vissuto molti anni, circa 20 anni, in cui le crisi si succedevano, non erano delle crisi delle dimensioni e dell'impatto di queste, ma erano delle crisi, delle mini crisi che colpivano diversi settori merceologici. Colpendo questi settori, alcune di queste aziende andavano in crisi. Io ero considerato la persona giusta per affrontare le crisi e quindi io ho passato circa 20 anni in 5 aziende diverse che mi venivano affidate in profonda crisi, venivano risanate e mi spostavano in una un po' più grande e un po' più in crisi, fino ad arrivare al caso limite, che è quello poi che ha dato successo alla mia vita, che è stato il caso che poi si chiamerà New Holland, nel senso che Fiat e Ford avevano deciso di unirsi più o meno come adesso Chrysler e Fiat auto, nel campo dell'auto, quello era invece nel campo dei trattori e del movimento terra. Queste due aziende, entrambe fallite, tecnicamente fallite, mi vengono affidate e inizia questa cavalcata di 5 anni che la porta al, non solo al risanamento, ma addirittura alla, alla quotazione a Wall Street, quindi quello che Marchionne si appresta di fare ora in autunno. Io sono un grande sostenitore della, della crisi, prima di tutto perché, in particolare di questa crisi, perché questa è una crisi vera, è una crisi vera dove le nostre élite si sfideranno, perché superare questa crisi sarà una situazione difficilissima, nel senso che la crisi del 29 in fondo è stata risolta dalla guerra. Noi non abbiamo la possibilità della guerra, fortunatamente, evidentemente, ma e quindi si vede le difficoltà che stiamo vivendo, perché poi il mondo si ripete tutto. Io sono dell'idea che sia positiva, perché noi ci eravamo anche umanamente molto degradati, noi occidentali, e la crisi c'ha di bello che potrebbe essere la nostra salvezza dal punto di vista di un recupero di determinati valori. Sono dell'idea inoltre che la crisi, uso un termine specifico, cioè un verbo specifico, la crisi non può essere, non si può combattere, non si può subire, ma si deve cavalcare. La crisi bisogna cavalcarla. Cavalcarla significa avere grande coraggio, accettarla e essere disposti a pagare dei prezzi alti. Questa è la crisi. Però c'è un grande vantaggio la crisi, perché la crisi è democratica, nel senso che sì. Solo i migliori sopravvivono, la meritocrazia si impone, perché per esempio nelle aziende la crisi porta alla liberalizzazione delle quote di mercato. Il problema drammatico sarà come riuscire a fare noi occidentali, perché noi occidentali abbiamo, c'è un numero che incombe su di noi, noi dell'euro siamo il 5% della popolazione mondiale, grosso modo, produciamo il 20% della, dei prodotti del mondo, ma consumiamo il 50% del welfare. Ecco, noi ci dobbiamo scordare di poter continuare a vivere con questi numeri. E quindi dovremo, io sono dell'idea che, è quello che così cerco di, quando lei parlava prima dei miei figli e nipoti, io cerco di insegnare la sofferenza. Noi dovremo imparare a soffrire, perché soffriremo, non ci sono ombra di dubbi che soffriremo. Soffriremo, ma noi dovremo avere determinazione per cavalcare tutto questo. E allora se dovessi... È stato troppo lungo. No, va benissimo, infatti stavo ascoltando con estremo interesse, ma allora devo chiedere, si può riassumere questo in 3 punti fondamentali per la ricostruzione, per uscire dalla crisi? Uno, mi sembra averlo capito, è cavalcare la crisi, andarci appresso. Sì, cavalcare la crisi, cioè noi dobbiamo ritornare ai fondamentali. I fondamentali sono quelli che noi non si può campare di commissioni, no? Cioè... Certo. Se lei vede il conto economico a livello mondo nel senso, un tempo c'era chi produceva valore aggiunto e lo produceva attraverso la costruzione di prodotti e così via, e poi c'era un certo numero di attività che vivevano di commissioni, le banche vivevano certo. di commissioni. E continuano a vivere. Uno dei business che vivono di commissioni, i commerciali, le reti di vendita vivono di commissioni. Ecco, noi abbiamo alterato questi parametri. Oggi tutto il grosso sono commissioni. Noi paghiamo delle commissioni e paghiamo delle commissioni, per esempio, alla finanza. Quindi non è un qualche cosa che non può stare in piedi. Ritorniamo, chiaro, dobbiamo ritornare ai fondamentali del business, chiaro, che poi sono i fondamentali della vita. E quindi, ma scusi se ripeto la domanda, ma possiamo veramente riassumere in tre punti? Ce la facciamo o è troppo complessa la questione? No, non lo so, non so adesso, io non so quanti sono i punti, cioè possono essere, però i fondamentali sono quello lì, è l'atteggiamento. Noi abbiamo, per esempio, nel libro è descritto, ed è una delle parti secondo me più riuscite, quando io sostengo che al potere ci sono tutte persone che hanno un curriculum tutti uguali, hanno tutti il curriculum uguale. Se lei prende il curriculum di questi grandi personaggi che sono a Bruxelles, sono a Francoforte, sono a Washington, hanno tutti lo stesso curriculum, sono laureati nelle loro rispettive nazioni dall'università più prestigiosa del luogo, hanno fatto il master in una delle cinque grandi università del mondo, quattro anglosassoni e una inglese, hanno fatto il junior consultant o in McKinsey o in Goldman Sachs e similari, hanno fatto, poi le cose si biforcano, o diventano banchieri d'affari o diventano amministratori delegati o diventano regolatori, ma sono fatti tutti nello stesso modo. A mio modo di vedere è difficile con un curriculum così capire come va il mondo. Certo. E i risultati li abbiamo visti, credo. I risultati ce li abbiamo, no? Ce li abbiamo. Alessandro Baricco ci ha detto in una conferenza ci ha detto che le menti che pensano uguale alla fine non sono dei veri geni così come si pensava, quindi che un po' di cose andavano cambiate. Sono dei funzionari, ecco, senza, esatto, nessuna connotazione negativa, no? Sono dei funzionari. Infatti vede che uno dei problemi che abbiamo è che, anche se lei vede quelli che diventano presidenti, primi ministri, eccetera, appaiono anche loro fatti con lo stampino. Adesso non per complicare le cose, ma quando si trovano di fronte a un personaggio che viene da un altro mondo con altre caratteristiche come Putin, entrano in crisi. Certo. E lì entriamo in una terra minata. E, Riccardo, a me il tempo veramente è tiranno, però, cari amiche, cari amici, Riccardo sarà qui con noi a Bruxelles l'11 giugno presso l'Istituto Italiano di Cultura, e a moderare l'evento sarà Marco Zatterin. Quindi, per quanti fossero interessati, l'11 giugno 2014 alle ore 19 presso l'Istituto Italiano di Cultura sarà possibile ascoltare in viva voce Riccardo e magari indirizzargli le domande che non siamo riusciti a fargli qui questa, certo, sera. Ben volentieri. Quindi noi veramente la ringraziamo di essere stato qui con noi a Bruxellando questa sera e saremo ben lieti di incontrarla la settimana prossima. Perfetto. In occasione di la presentazione di Una storia operaia. Grazie molte a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite a lei. Buona serata. Grazie. Speriamo di vederci l'11 giugno, anzi ci vedremo di sicuro. Ci vediamo l'11. L'11 grazie. Giugno. Grazie. E vi ricordo che questo è un appuntamento organizzato dall'Associazione Piemontesi nel Mondo e questo è il secondo degli incontri, per l'appunto dell'edizione Incontri con l'autore. E siamo qui, il tempo ahimè in radio è veramente tiranno. Ringraziamo anche Anna Gibello, presidente dell'Associazione dei Piemontesi in Belgio, la quale ci ha messo in contatto per l'appunto con Riccardo Ruggeri. Ringrazio Dani M in regia. Grazie a voi, buona serata. La nostra Fiordaliso che la settimana prossima avrà un doppio spazio, anzi triplo spazio. Me ne ricorderò. Avete sentito sola. Tutti, avrò il doppio spazio. È una promessa. Quindi è una promessa e questa la manteniamo. Bisogna mantenere la promessa. Assolutamente. Volta, alle 8:30, signori. No, la prossima volta suggerisco di invertire. Facciamo cominciare la nostra Fiordaliso. Ah, certo, sì, è anche vero. E poi facciamo l'ospite, così che mantengo. Signori, dalle 8 alle 8:30, puntata speciale di Librangolo, che dovrà chiudere con la puntata scorsa, della settimana scorsa, che era stato chiuso un po' in anticipo su un autore, grande autore, e il titolo del libro si chiamava Shalazar. No. Shalimar, il clown. Hai sbagliato Shalimar il clown, ho sbagliato. Ho cominciato bene, ho terminato male, come succede. E invece questa sera terminiamo benissimo, perché io concludo alle 20.57 come promesso, e come ha promesso tutti quelli da radio. E siamo in orario questa sera. Assolutamente in orario, ringrazio Mary D. E noi salutiamo Gerard Adam e Claire Rouet. Buona settimana a tutti. Ciao.